l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, caro ascoltatore di Radio 24, in questo sabato post natalizio, il 26 dicembre. Vi teniamo comunque compagnia, avete iniziato le feste, speriamo tutti molto bene. Insomma, da qualche parte del mondo un po' meno bene, come avete visto, giornali radio, telegiornali. Però, insomma, nel nostro augurio di serenità di queste buone feste, abbiamo pensato comunque opportuno fare una trasmissione un po' più breve del solito, un'ora in questo sabato. Lo faremo così anche per il giorno dopo Capodanno, il 2 di gennaio. Il 2 di gennaio vi parleremo di cosa è prevedibile o ci si può aspettare per il 2016, invece approfittiamo di questa trasmissione post natalizia per fare qualche riflessione insieme a voi su che cosa è avvenuto nel 2015 dal punto di vista dell'economia, delle maggiori vicende pubbliche nel nostro paese, in Europa e così via. Un resumé di fine anno con ancora i sensi un po' appesantiti dopo Natale, ma la mente sempre sveglia, perché noi siamo i compari. No, non è vero, abbiamo fatto la trasmissione di un'ora perché siamo appannati. Io ho mangiato dalla mamma ieri, un disastro. Ah, qui ti sei appesantito, sì. Caro Renato e caro Alberto, com'è andato il Natale? No, bene, stavo pensando a Santo Stefano, io sono già oltre, che sono già a Santo Stefano protomartire, cioè il primo che si è fatto ammazzare perché credeva in una roba. Non si è fatto ammazzare, lo hanno ammazzato, un po' diverso. Sì, insomma, c'è sempre la possibilità di però ha dato fastidio a qualcuno, diciamo. Mi pare che questa sia la vera presentazione compiuta. Spero non sia l'augurio per l'anno prossimo. Mi domandavo se, come dire, farsi lapidare, perché di questo stiamo parlando, sì, per quello in cui si crede è ancora una scelta possibile oggi. E tutto sommato parli per il cardinal Bertone? Parlo di noi, in realtà parlo di noi, perché siamo qua a dire, pochi isolati in quest'anno che si chiude, che invece quest'Italia poteva e doveva fare molto di più. Ma come? Ma è stato l'anno di Renzi? Ma perché? Ma lo volete piantare, gofacci che non siete altro, anche il giorno dopo Natale? Bisogna riconoscere al Presidente del Consiglio tutta questa meravigliosa aria nuova che è entrata nel nostro paese, il rispetto che finalmente l'Europa e la Germania ci deve. Ragazzi, ma non me ne stai resi conto, i treni arrivano in orario, finalmente. Le tasse sono scese addirittura. Tax wars. Io ho trovato la comunicazione del PD particolarmente pop negli ultimi mesi. Me ha fatto venire in mente solo che lo Stato è il lato oscuro della forza, quando lo ho visto tentare di cavalcare le nuove episodi. Guarda, a me posso fare un pensiero natalizio, a me sempre più guardando questo tipo di comunicazione tax wars e quant'altro, a me PD mi ricorda molto l'acronimo di propaganda demenziale. Questo è il messaggio Santo Stefano a tutti. Ho detto che avevo paura io di un Mario natalizio, ragazzi. No, dai, insomma, facciamo un discorso serio. È il primo anno compiuto, perché l'anno precedente il Presidente del Consiglio era entrato, aveva assunto l'incarico ad anno inoltrato, quindi è un bilancio completo, perché finalmente ci ha fatto vedere tutta l'articolazione delle sue corde politiche. Uno che dice di rispettare le regole, naturalmente fa una legge di stabilità in cui in realtà il deficit è tutta finanziata in deficit, e vedrete che il deficit sarà maggiore di quanto dicono, ma questo poi lo vedremo l'anno prossimo. E poi adesso dice, ma questa Europa, le regole tutte sbagliate, la Germania eccetera eccetera, però coglie un umore. E allora la domanda diventa, ma il bilancio di questo 2015 renziano tutto sommato è un grande protagonista? Poi c'è una parte di consenso che all'inizio aveva preso in maniera molto forte, che si è rafforzata fino a un certo punto per mancanza di sfide, no? Di contraddittori credibili. C'è un centrodestra di cui non voglio neanche parlare, e poi ci sono i 5 Stelle. Qualche segno di crisi ultimamente, però in questo bilancio del 2015 mettiamoci ciascuno un elemento personale di questa cosa renziana. Carlo Alberto, il tuo Renzi 2015? Il mio Renzi ha fatto vuoto intorno a sé. Una delle prime colpe che dobbiamo riconoscere al Presidente del Consiglio è di non avere fatto crescere una, diciamo, una classe dirigente. No, mi dispiace, non è pensabile governare questo paese con questo centralismo, questo decisionismo leaderistico. Non è pensabile, anche perché questo paese ha bisogno del messaggio contrario, cioè gioco di squadra, collaborazione, fare sistema. Il messaggio che esce dal Presidente del Consiglio è accentramento totale di tutte le decisioni. Si è circondato di yes men o di yes women, e francamente questo è un messaggio molto brutto. Quindi tu dici che sta sbagliando nel modello gestionale. Su questo certissimo. Poi dopodiché il mix di politiche vedremo, per carità. Come cambia la gente, mette i nuovi, cambia i vertici di CDP. Si è circondato di amici strettissimi, tra l'altro geograficamente molto ristrette anche il mix di persone che si è circondato. E secondo me è preoccupante. Cambia perché la gente a ferrovie, mette tutta gente strana a Firenze che non ha mai visto né sentito, solo valutato per merito. Solo valutato per merito, sì, certo. Ciò detto, se è un modo per rottamare, vedremo come, cioè, quantomeno una pulizia si è fatta. Francamente il modello di selezione della classe dirigente renziana non è un modello di trasparenza, non è un modello di accountability anglosassone. Ma eri tu il renziano della compagnia adesso? Io inizi. Sì, dopo Natale, diciamo, rispetto, ma rispetto a voi pesante. Rispetto a voi ragazzi, hai mangiato tutto relativo, diciamo. Hai mangiato pesante, ragazzo. Dabbè, invece fammi dire qualcosa di buono. Vero, speravo in questo, dopo Natale. Di buono. Sì, è vero. Intanto è finita per la prima volta, dopo, insomma, è finita il pessimismo cosmico che ha caratterizzato questo paese. Questa è una cosa, secondo me, importante. Un po' di propaganda fide, questo è stato fatto probabilmente con è ripartissimo, è comunque ripartito faticosissimamente un pezzettino di fiducia produttiva in questo paese. Qualche piccolo segnale non possiamo negarlo, no? È vero che qualcosa si sta muovendo. Certamente non è il modello di Repubblica pronto per presentarsi ai colleghi europei per fare un passaggio epocale, cioè per mettersi alle spalle del passato. Non siamo ancora pronti a una sfida con l'Europa, e questo tira e molla, no? Questo europeismo a giorni alterni, a pendolo, ce lo sta dicendo sostanzialmente. Un po' è un populismo, è un po' opportunismo, poi andiamo col cappello in mano a chiedere la flessibilità, dopo chiediamo protezione per la politica monetaria. Quindi ti vedo molto deluso. Purtroppo. Perché la loro tesi è che invece la crescita pur asfittica 0,7-0,8, vedremo quanto è il 2015, loro dicono senza governo sarebbe stata anche meno forte, cioè senza l'enorme decontribuzione data al mercato del lavoro, occupati aggiuntivi veri, addizionali, pochi, però in realtà un mucchio di voglia delle imprese di fare contratti nuovi, trasformazione di contratti, molti voucher, molte occupazioni a tempo, però loro dicono senza questa roba saremmo andati ancora peggio, senza di noi non saremmo ai massimi storici da tanti anni, cosa che è vera, dei indicatori di fiducia delle famiglie e delle imprese. Mario, quanto c'è di fondato nella difficile percezione della storia fatta col what if di chi critica, no? Perché di solito loro ti dicono sì, certo, voi siete bravi sempre a fare controscenari. Ma insomma, noi non potevamo non crescere quest'anno, cioè l'Italia non poteva non crescere. Con fattori esogeni? Ma sì, cioè, poi ripeto, Renzi sta usando la leva della comunicazione, della motivazione, del messaggio di ottimismo, perché persegue questo obiettivo. Voglio dire, ognuno, ripeto, fa i piatti con gli ingredienti di cui dispone. L'aspetto motivazionale nella comunicazione di Renzi è fondamentale, però ci vuole anche la sostanza sottostante. Per cui non è che la gente... Adesso si è stabilizzato il mercato del lavoro, ha avuto un lieve miglioramento che è completamente ciclico. E da lì Renzi parte con questo messaggio di fiducia. Poi, non dimentichiamo una cosa. Allora, una cosa bisogna dirla. Questa Unione Europea sta cadendo a pezzi. Questo è un dato oggettivo che chiunque vede. Ci sono problemi di coordinamento apocalittici, contrasti praticamente anche su che ore sono nel corso di una giornata ai meeting. Una situazione veramente dove l'Unione Europea rischia, ma non il collasso, ma proprio la paralisi, si ferma lì, ognuno per sé e Dio per tutti. Quindi Renzi inserisce la sua comunicazione, anche questi atteggiamenti sfidanti nei confronti della Merkel, che hanno una valenza, tra virgolette, populista, nella sua strategia di comunicazione. Però non so quanto queste strategie siano di lungo periodo o non piuttosto frutto di un tatticismo esasperato, perché comunque Renzi in Italia ha il fiato sul collo. Dalla realtà, dal Movimento 5 Stelle, che comunque, cioè, io ho un'idea molto precisa sul Movimento 5 Stelle, forse chi mi segue su base regolare sa di cosa parlo, magari ne parleremo nei prossimi mesi, e quindi Renzi sta facendo quello che probabilmente ha molti meno margini di autonomia di quello che pensa di avere. Però ribadiamo, basta, era utile contrastare l'autorità ideologica e folle degli scorsi anni, attenzione a non rispondere con una mossa di segno contrario, cioè con un lassismo fiscale, perché non serve essere sotto il 3%, perché lui dice siamo sotto il 3%, il deficit PIL è il più basso da 10 anni, sì, ma se sei in espansione e stai aumentando il deficit strutturale vuol dire che stai facendo una politica fiscale prociclica, cioè quello che fanno in Sud America da sempre è quello che faceva la Democrazia Cristiana ai tempi d'oro. Esattamente. Per cui è inutile dopo dire ma è la Merkel. Ma questi sono i tempi d'oro della Democrazia Cristiana. No, lo so, è una Democrazia Cristiana questo, degenerata. Questo secondo sì, me. Devo dire, anch'io non ho mai trovato più di tanto questo efficace questo avvicinamento. Però vedremo se questa scommessa funziona o meno. Diciamo che ci saremo qua la parte politica, perché sennò poi annoiamo il giorno di Natale i nostri ascoltatori. Andiamo a vedere un po' cosa è successo nel 2015, però l'anno in cui l'America riprende la divergenza dei tassi dopo tanti anni, la Cina che frena, la crisi degli emergenti, Brasile, Argentina, è tutto molto diverso rispetto a come ci aspettavamo all'inizio dell'anno. A tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui, questo 26 di dicembre, vi teniamo compagnia anche questo sabato, seppur in edizione ridotta, compagni dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio. Eccoci qua, dopo qualche riflessione all'inizio di questa nostra trasmissione di un sabato raccolto a smaltire gli eccessi del Natale, però con spirito, abbiamo lo spirito di una generosità, di una bontà natalizia, dato qualche pillolina all'inizio nei confronti del grande anno di Renzi, che insomma la sintesi della politica italiana 2015 è questa, però ci eravamo fermati, cari amici e compari, su questo 2015 che dal punto di vista dell'economia internazionale e dei mercati, insomma qualche brutta sorpresina l'ha riservata. Siamo in anno oramai di conferma della diminuzione della crescita potenziale di tutte le tre maggiori macro aree mondiali, un anno in cui per l'ennesima volta il commercio mondiale chiude a un più 2%, che fa impallidire le previsioni di più 4 rotte con cui era cominciato, crisi degli emergenti sempre più forte, Brasile, Argentina, forte rallentamento cinese, scommessa saudita di fare un braccio di ferro terribile sul petrolio per buttare fuori dal ring la tecnologia del fracking americano, non mi pare che abbia successo, ma insomma sono tutte componenti di rischio molto forte, perché diminuiscono la crescita, il rischio di paesi che crescono meno e vanno in torsione ma hanno i debiti denominati in dollari contribuisce all'instabilità finanziaria internazionale, e la divergenza, la simmetria tra politiche monetarie delle grandi macro aree apre dei problemi molto molto forti. Cosa ti ha stupito di più, caro Alberto, da questo punto di vista, in questo 2015? A me ha stupito la reazione cinese allo shock, post-capitalistico della borsa. Cioè, a metà dell'anno, quando il governo veramente ha interferito pesantissimamente con il mercato dei capitali, lì mi ha stupito, perché secondo me lì ha perso lucidità. Io ho un grandissimo rispetto del governo cinese, trovo che al di là dell'ideologia e al di là di inaccettabili vincoli contro i principi liberali, abbiano avuto veramente una lucidità straordinaria nel portare il loro paese fuori dal quindi livello. Tu, dal punto di vista del fine tuning, come si dice, cioè i regolatori cinesi sono stati bravi, perché i rischi erano enormi. Tutto sommato l'hanno gestita, però hanno veramente perso il controllo. C'è stato metà dell'anno in cui la Cina era in confusione assoluta, hanno un po' ripreso il controllo verso la fine dell'anno, bisogna però vedere se riusciranno a fare in questi prossimi anni un pezzo di transizione così di successo come hanno fatto negli ultimi 15 anni. Io qualcosa dubito, perché purtroppo è cambiata, o per fortuna è cambiata la società profondamente, la società civile cinese, cioè il tessuto culturale dei cinesi. Io ho tanti studenti cinesi, ho investito insieme alle aziende con cui lavoro in Cina da 15 anni e ho visto una Cina completamente diversa, molto più consapevole, molto più pragmatica e molto più integrata. E quindi per me la grande incognita ancora sarà che cosa fa la Cina nel futuro. Noi abbiamo un mondo in cui gli Stati Uniti faticosissimamente riescono a recuperare un minimo di equilibrio e di controllo, ma con focus interno, e la Cina che è la grande incognita. Io devo dire la verità, penso invece che per molti per molti, non per tutti, infatti chiedo a Mario, però per molti la sorpresa sudamericana, insomma Brasile, quella è stata una sorpresa vera in quest'anno. Sì, Brasile è giunto il momento della realtà anche in Brasile, quindi una politica economica assurda, fiscalmente sempre espansiva col piede a tavoletta, che si è alimentata negli anni scorsi del boom delle materie prime e che quindi è stata presa in contropiede dallo boom delle materie prime, e adesso la realtà sta presentando il conto, per cui la crisi brasiliana, io segnalavo già all'inizio del 2015, segnatevi quest'anno è l'anno del Brasile, non era un complimento, era proprio del tipo il rischio, e per il paese non si vede ancora l'uscita. Quindi il suo ministro delle finanze Joaquim Levy si è dovuto dimettere perché appunto non c'è modo di far passare misure che possiamo definire di austerità, per cui è veramente paralizzato. C'è questo grandissimo scandalo di corruzione che ruota intorno a Petrobras, che ha sviluppato una mani pulite brasiliana di portata assolutamente devastante per il sistema, e che minaccia anche padri nobili apparentemente tali come Lula, diciamo, di avvicinarsi proprio al Sancta Sanctorum. Quello è un paese in profonda crisi che deve reinventare se stesso, e penso che le sofferenze saranno ancora lunghe. Per contro, l'aspetto di grande cambiamento che ci ha portato il 2015 è stata la svolta argentina, cioè l'arrivo alla presidenza di Mauricio Macri, perché ha perso l'accento, la I finale, anche se le origini italiane sono ovviamente di Macri, ma è Macri. Che cosa ha fatto? Appena insediato, appena realizzato il suo governo, ha lasciato andare il cambio, ovviamente, e l'ha portato sui livelli della realtà. Per cui il peso, il cambio ufficiale del peso, si è svalutato immediatamente del 30%, si è riallineato alle quotazioni di mercato nero. Da qui in avanti sarà durissima, perché gli argentini soffriranno ancora di più in transizione, come sempre, come questo è il mio punto focale, si soffre sempre maledettamente nelle transizioni, ma è inevitabile avere delle transizioni. Un paese, l'Argentina, che vive di sussidi, i sussidi energetici sono il 7% spaventoso del PIL, dovranno essere rimossi, bisognerà proteggere i soggetti realmente poveri, non la classe media che paga sciocchezze, l'equivalente di un caffè e di un cornetto al bar, sulla bolletta elettrica di un bimestre, e dopodiché c'è un deficit energetico che li sta ammazzando. Vedrete che vi diranno che è colpa del liberismo, ma anche nel caso non brasiliano, dell'euro in questo caso. No, non dell'euro, per quanto alcuni riterranno che ci sono degli influssi anche lì. Per cui, secondo me, in Sud America abbiamo veramente due giganti malati. Beh, però adesso malati. Io una cosa di cui sono abbastanza incuriosito è cosa farà il Venezuela. Certo, dopo le recenti certo elezioni, perché il Venezuela, come produttore, grande produttore di petrolio, ricordiamo ai nostri ascoltatori, se non ricordate, è finito il grande ciclo Chavez Maduro, la grande esperienza bolivarista della ripresa rivoluzionaria nel Centro America, che si era incardinato in quel paese, piccolo e particolare, altrimenti incarceravano chi non era d'accordo, però è finita perché le elezioni e il successore di Chavez, cioè Maduro, le ha perse, e le ha perse clamorosamente. La vera domanda, e poi ti ridò la parola, e se quel fronte un po' eterogeneo di partiti di opposizione regge e riesce a fare scelte giuste. Ma no, tu dicevi? No, perché il Venezuela era in fondo un esempio per alcuni paesi, proprio per le politiche che ha fatto. Adesso vedere quale sarà il passaggio, appunto, se reggono, e la transizione di un Venezuela, chiamiamolo democratico, poi qualcuno asserirà che era democratico anche prima, però io quando vedo la gente vincere le elezioni con il 99% dei consensi, qualche dubbio ce l'ho. Poi insomma è anche un paese dove noi lavoriamo, quindi un po' lo conosciamo, e il problema vero è capire quale sarà l'influenza anche dal punto di vista culturale di un Venezuela diverso in un'area che è sempre stata molto tirata per la giacchetta con Cuba, Venezuela, eccetera. Io invece voglio parlare di Russia. Secondo me la grande novità di quest'anno è stata la Russia nel bene e nel male, nella prima parte per i conflitti Crimea e Ucraina, e nella seconda parte per il suo ritorno sulla scena internazionale con protagonismo militare e politico, francamente, che mi ha stupito. Per la capacità... Perché ti ha stupito? Mi ha stupito perché ha raccolto un sacco di consensi anche in Italia, anche in Francia. Anche in Italia. No? Diciamo, ho scoperto un clan filorusso trasversale. Filo uomo forte, dai. Beh, sì, filo uomo forte, non è solo questo, no? È anche una, diciamo, da un certo punto di vista, anche un modo di leggere la politica russa, secondo me è anche più trasparente. Posso dire, Putin ha un'agenda leggibile, più o meno condivisibile, io non la condivido, però leggibile. Gli americani, francamente, invece hanno fatto di tutto per essere contraddittori, illeggibili e incondivisibili, almeno dall'Europa sicuramente. No, praticamente Putin, Putin è come Renzi in Italia, non ha un'alternativa. No, andiamoci piano con questi paragoni, ragazzi. Gli piacerebbe. La cosa buona, nel senso, non ha un'alternativa, quindi spicca per la sua. Però io credo che il fatto che la Russia, quando Carlo Alberto dice stupore, sì, però è vero che la Russia oramai è stivale sul campo, aerei e navi nel Mediterraneo e aerei nel cielo del Medio Oriente, sta esercitando un ruolo che durante tutti i decenni della guerra fredda si poteva sognare di esercitare. Aveva i consiglieri nei diversi paesi arabi, però non aveva la forza che, con cui ha affermato il proprio diritto di essere un cartaro per il futuro di quell'equilibrio geopolitico tra sunniti, sciiti, Arabia Saudita, monarchia del Golfo, Iran, Israele, Turchia, e quindi questo ruolo se l'è preso. L'Occidente, ohimè, ha commesso tanti di quegli errori, di che si stupisce? Non esistiamo, voglio dire, l'ISIS in quanto tale, i vertici dell'ISIS al di là di al-Baghdadi esistono grazie all'errore fatto dagli Stati Uniti con la debatificazione totale, non capire che l'Iraq andava, c'era una parte sud a maggioranza sciita, c'era una parte nord sunnita, c'era il problema curdo. Commesso l'errore tale per cui l'ISIS esiste per questa roba qui, in buona sostanza. Ed è più bravo, più temibile di Al-Qaeda, perché non è fatto di predicatori ricchi sauditi, è fatto da gente che per anni ha diretto servizi segreti, ha avuto banche coperte in tutto l'Occidente, perché questi erano gli alti ufficiali del BAT iracheno. Dopodiché gli errori si pagano, le chiacchiere sulle primavere arabe, il non vedere la Libia, l'abbiamo regalata praticamente alle fazioni islamiste. Io credo che ci sia un senso della storia che Putin riempie a quel punto con la sua politica neoimperiale caucasica, ma che è una politica neoimperiale rispetto al fatto, le carte tra sunniti e sciiti l'America non le dà, le do io. Non mi sembra poco, questo è... No, anche perché sta incarnando il ruolo di difensore della fede, se posso dire, che è perfetto in un clima da guerra di civilizzazioni, e devo dire che l'unico baluardo dei valori discutibilissimi dal mio punto di vista conservatori dell'Occidente cristiano lo sta facendo lui, francamente. Tutti gli altri stanno facendo il doppio e il triplo gioco, gli italiani manco giocano, gli italiani, bisogna... però ahimè, questo dovevamo trattarlo, questo tema, visto che 2015 è stato poi l'anno del Bataclan, l'anno insomma del eventi tutti che sì, ci hanno lasciati sgomenti. Dopodiché non è chiaro quale sia la politica, l'Europa non ha una politica, gli Stati Uniti in questo dicono sì e no, credo che alla fine gli sviluppi saranno di tutt'altro tipo, nel senso che non li abbiamo ancora capiti, ma chi darà le carte e chi ha i mezzi militari più forti da quelle parti, e non siamo noi, non è l'Occidente, non sono gli Stati Uniti. Però, chiusa questa parentesi, torniamo tra un minuto e torniamo a reinterrogarci sul bilancio dell'Italia. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Secondo me, essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Come sarà il 2016? Come si immaginano i bambini la vita nel futuro? Perché si dice buon anno? Lo scopriremo a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Sono Federico Taddia e vi aspetto insieme al filosofo Telmo Pievani giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1 gennaio alle 9 con racconti, favole, ospiti e tante curiosità per grandi e piccini. Radio 24, feste in vista. Più forte e Morti della Belva. Eccoci tornati qui questo 26 di dicembre in questa trasmissione post natalizia, sia pure in versione più stretta, ma insomma i compagni dei Conti della Belva ci tenevano particolarmente, come faremo anche il sabato dopo Capodanno 2 gennaio, a stare con voi. E questo sabato lo dedichiamo, lo stiamo dedicando a una specie di bilancio del 2015. Abbiamo fatto un piccolo bilancio su Renzi e la politica in Italia, abbiamo dato un occhio alle maggiori vicende della politica internazionale, dell'economia internazionale, la frenata dei paesi emergenti, la crisi del Brasile, dell'Argentina, la Russia. Abbiamo fatto qualche considerazioncina su ISIS e il problema dell'equilibrio in Medio Oriente. Adesso ci ha raggiunto, io sono molto grato in questo giorno post natalizio, Riccardo Ruggeri, che è una persona che è uno dei miei, per così dire, indicatori di lettura del mondo da un bel po' di anni. Riccardo Ruggeri per me è una persona straordinaria, nasce da una famiglia modesta, entra in Fiat come operaio e alla fine diventa amministratore delegato di uno dei più grandi turnaround di cui è stato capace il gruppo Fiat nella storia, portando New Holland all'interno del perimetro, la guida straordinariamente, entra nel comitato strategico dell'azienda. Insomma, per me, nato nella Torino, operaio di Misfino Nord, una persona straordinaria, perché ha lo stesso spirito di quando giovanissimo era operaio, lo ha condotto ai massimi livelli del management e ha una capacità critica anche di quel mondo che a me ha sempre molto molto molto colpito. Grazie di essere con noi, hai passato un buon Natale? Spero di sì, Riccardo. Benissimo, grazie. Senti, questo 2015, tu hai un criterio di lettura di come sono i limiti di questo sistema che tu definisci, è una specie di sistema dei manager, dei CEO che hanno oramai dei difetti costitutivi. 2015 mi pare di capire che non ti ha dato grandi elementi per diffidare di questa tua tesi, vero o no? Indubbiamente è stato un anno dove, se posso dirlo in termini semplicistici, hanno prevalso i bugiardi. Cioè questo è un anno di bugiardi, tutti contano sostanzialmente balle. La cosa che mi preoccupa, e questo fa parte delle regole del gioco, sappiamo tutti che le elite, le persone al potere molto spesso indulgono nella bugia, la cosa che mi preoccupa di più è che ho la sensazione che credano alle loro bugie. Ah, facci qualche esempio. Beh, sai, quando uno, cioè, tanto per farne uno, Renzi, no? Io non ho ancora capito se lui, quando fa queste sue affermazioni, queste sue sparate, siano delle sparate così per cercare di guadagnare consenso, così via. E certe volte ho il timore che lui ci creda sul serio. Questa è la preoccupazione. La stessa cosa sentivo prima, parlavate dell'ISIS, della guerra. Io ho il timore che non abbiano, che nella fattispecie Obama non abbia ancora preso atto che non può essere il capo di un impero se i suoi sudditi non sono disposti a morire per gli altri, come hanno fatto nel 15-18, come hanno fatto nel 45. Te non puoi più vestire il mondo, più nessuno gli crede. Questo è il tema che mi ha turbato nel 2015. Certo. Posso dire una cosa, però sì. A me interessa una cosa, oltre che la politica. Il disastro è, prima ci interrogavamo su quanto gli imprenditori italiani, i tanto lodati piccoli imprenditori italiani, però anche poi quelli grandi, a volte i grandi imprenditori italiani, quanto a loro volta credono davvero in quello che dicono, perché hanno una voice così bassa su temi. Per esempio, è successo questo problema delle quattro banche in Italia e abbiamo capito finalmente che non abbiamo affatto il sistema bancario più sano del mondo, sono evidenti le pecche dei regolatori, è evidente che però c'è un grande cover up, un grande tentativo di insabbiare, di non andare a fondo. Gli imprenditori sono muti, come se questa cosa riguardasse un altro pianeta, un altro universo. Ma gli imprenditori tacciono perché preferiscono non essere bugiardi, come dici tu, oppure anche loro in questo paese credono molto poco al fatto di poter cambiare e migliorare. Tu che dici? Dobbiamo prima metterci d'accordo. La figura degli imprenditori è una figura che sta oggettivamente scomparendo, cioè oggi noi chiamiamo imprenditori, ma molto spesso intendiamo manager, perché i veri imprenditori oggi, o onestamente non è che siano tantissimi, specie in Italia. Il resto del mondo di imprenditori io non ne vedo, vedo dei manager, super manager che sono a capo di grandi corporation, di grandi, dove però l'imprenditorialità è esclusa. Se escludi quei californiani, vedo molto poco da questo punto di vista. In Italia in particolare, in Italia oggi loro si trovano in una situazione estremamente difficile, credo, perché sono soggette a questi, a una tale pletora di vincoli, e prendiamo il caso specifico delle banche, non è che ci volesse tantissimo a capire che queste banche di territorio sono identiche al territorio. Esatto. Sì, perché prendono gli equilibri territoriali, le categorie, le fotografano e li mettono dentro. Si, in effetti. Si trasformano in, da commercialisti, da avvocati, in banchieri. Ma è una cosa che si dicono loro. Ma dietro non c'è nulla. D'altra parte, anche tutto il sistema bancario. Io, come sai, abbiamo una attività nel mondo della moda. Sì. Allora, quando queste business plan, che chiedono i business plan, i loro business plan non sono assolutamente, queste persone che analizzano tutto questo non sono assolutamente in grado di analizzare un business plan al di là degli aspetti finanziari. Cioè, un tempo i banchieri erano persone che entravano nel merito del prodotto, entravano nel merito del business, e quindi avevano grandi capacità di analizzare le aziende secondo i principi del controllo di gestione. Certo. No, la cosa incredibile è che questa capacità, Carlo Alberto, di valutare il merito di credito con il progetto industriale, a distanza di tanti anni oramai da che abbiamo abbandonato la vecchia legge bancaria che separava le attività bancarie, no? Quindi la banca commerciale da quella di impieghi di medio e lungo periodo, però dopo tanti anni questa capacità di valutare il merito di credito dei progetti, dei business plan, dei piani di settoriale industriale, perché la banca italiana non l'ha mai sviluppata? Secondo te? Perché non è una capacità individuale più, ormai è un processo collettivo basato su dati, basato su tecniche, basato su modelli, è una cosa molto più complessa di prima. Purtroppo non può tornare il modello dell'intuizione profonda tra imprenditore che chiede e direttore di banca che comprende. È un modello che ha fatto grande, secondo me, la piccola e media impresa italiana, ma che è finito. Noi vediamo proprio nel campo del credito cooperativo, che invece ha applicato questo modello di credito per tanti anni, è il settore dove l'uso delle tecnologie, degli analytics, dei criteri di risk analysis e credit scoring è il più basso in assoluto. E purtroppo, mi dispiace, ma il futuro del banking è basato sulla matematica, sui dati, sui modelli, è basato su un'intelligenza distribuita, su modelli completamente automatizzati. No, però stiamo attenti, i dati non significano l'automatismo del rating. No, i dati per valutare davvero se quel progetto industriale è innovativo, vale la pena e fa delle buone cose oppure no. No, questo non si può dire prima, cioè si può usare una serie di parametri che lo delimitano il rischio, ma è un modello distribuito. L'idea della concessione liberale affidata al singolo essere umano è semplicemente contrario al principio della distribuzione del rischio e del modello di gestione dello stesso. Quindi magari Mario ci può aiutare su questo, ma è oggettivo che quel modo di fare banca che ci ha accompagnato e che ha tanti meriti è finito. Siamo pronti ad affrontare quello nuovo? In Italia pochissime banche sono pronte a farlo. Sì, penso anch'io. Temo anch'io perché comunque c'è l'aspetto umano, c'è un problema di formazione del personale che deve lavorare su questi dossier, c'è un problema di adeguatezza, c'è un problema di conformismo. No, un dato che a me ha sempre colpito molto, guardando la distribuzione delle sofferenze bancarie italiane, il grosso, ma sia come numero di pratiche che ovviamente come importi, ma per motivi funzionali è quello prodotto in sede deliberante dagli organi bancari di livello più elevato. È vero, sì. È vero che quello è l'importo, per cui c'è anche un effetto ottico, cioè, eccetera. Però andiamoci conto anche di questo, no? Cioè, dove ci sono i dossier rilevanti e pesanti e dove decidono i vertici delle banche, la componente lo scoring, no? Tutti questi metodi quantitativi, eccetera, lasciano il passo alla dimensione umana, e così in tutto politica il pianeta. Umana, politica, esatto, relazionale, e lì si pone la differenza tra un sistema sano ed un sistema di compari. Questo è il problema. Però se posso dire, Oscar, questo mondo finisce, perché non tocca alle banche finanziare il business plan, tocca al private equity, tocca ad altre forme di intermediari finanziari. Le banche finanziano il circolante, faccio un mestiere molto diverso. La banca universale, che fa tutto dalla culla alla bara dell'imprenditore, non è, come dire, non è cittadina europea, mi spiace dirlo, perché mancano gli skill, mancano i procedimenti, manca la cultura. Separiamo e rispecializziamo il capitale di rischio. Le banche generano, se vogliono, attori in grado di fare equity o debito a settori o ad aziende specializzate, ma l'idea della filiale bancaria universale dove entri e hai risposta su tutto è semplicemente da dimenticare. Peraltro alcune, adesso diciamo, i modelli di sviluppo delle banche e di servizio stanno evolvendo dal lato commerciale verso l'impostazione supermercato, no? Tu vai in banca, ti compri il frigorifero, magari l'auto, ti compri qualcosa e te la finanziano con il credito al consumo. Quindi questo è l'aspetto più immediatamente commerciale. L'aspetto a cui fa riferimento Carlo Alberto, cioè della banca come advisor e come private equity, dovrà essere probabilmente nucleato in strutture non interne alla banca, no? Di eccellenza, di elite, tutto quello che volete, magari ci illudiamo che andrà così. Però il mass retail sarà sempre più la banca supermercato, dove io entro in banca e mi offrono magari il frigorifero col finanziamento di credito al consumo della banca. La mass retail, ragione, però state attenti, noi stiamo parlando di un problema che riguardava gli imprenditori italiani. L'imprenditore italiano, la domanda era: ma com'è che sono così timidi, stanno zitti, eccetera eccetera. Riccardo Ruggeri ci ha detto una cosa: in realtà poi ormai gli imprenditori italiani sono molto meno di quanto non si creda, sopra una certa soglia in poi, e quindi c'hanno dei problemi. In questi problemi aggiungo, quando noi ai nostri associati della Lombarda gli abbiamo fatto toccare con mano che il più delle sofferenze del sistema territoriale o comunque delle banche a fronte di quali erano molti affidatari era, quando dico il più significa quasi l'80% in termini di valore, era con i grandi gruppi, i grandissimi gruppi, non i piccoli gruppi. Naturalmente tutti qua, l'imbarazzo dei grandi nomi di Assolombarda, convinti ovviamente di avere un dato completamente diverso, che dimostrava, cioè, la difficoltà delle piccole imprese che non pagano, quelle che... No, cioè le grandi sofferenze, il monte delle sofferenze viene dai grandi, cioè quelli che hanno sempre avuto, e anche in questi anni di crisi, regole di accesso al credito completamente diverse dai piccoli e piccolissimi. Ergo, quello che diceva Mario, enorme mole di credito relazionale invece che basato sul merito, questo per me resta un grande problema del nostro paese, eh? O no? Che dici, Renato? Tu? Troppo grandi per fallire. Io ho capito, ma troppo grandi anche per essere giudicate, cioè gli organi di livello più elevato bancario e il credito lo danno sulla base di questo, è così che si producono i sovraffidamenti. Fammi fare invece una sezione per industry. Quasi un euro su quattro prestato dalle banche nel settore delle costruzioni dell'edilizia è finito in sofferenza, quindi c'è anche un tema settoriale, si posso dire, in quel settore ci torniamo dopo la pausa, però dai. Ripeto, quei settori lì come livello di perdita di produzione e valore aggiunto sono in tutto tre dimensionalmente, perché sono, per riepilogare, quello che ha appena citato, cioè le costruzioni, separato da quello, ma del tutto collegato, cioè il cemento, che anche lì 50% è rotti, e l'acciaio, perché stiamo uscendo dall'acciaio per via dell'Ilva, in buona sostanza il ciclo combinato chiuso, ecco, stiamo uscendo da quello. Tutti gli altri perdono, ma non il 50-60%. Ecco, l'auto sta riprendendo senza, nel 2015, ragazzi, se non c'era la Fiat, col ma cavolo... Santa Fiat! La Fiat sono 0,3 quasi di punti di quest'anno, che fa da sola... Marchionne ha salvato Renzi, vogliamo dirlo. Marchionne ha salvato Renzi, questo spiega la sua gratitudine. Ed è qui che ripartiremo tra un minuto esattamente con Riccardo Ruggeri. Più forte e fino alla morte racconti della belva. Eccoci qui, tornati con i compari dei Conti della Belva, insieme a noi Riccardo Ruggeri, operaio manager ai più alti livelli della Fiat, dal livello quello operativo, manuale più basso, con lo stesso onore, la stessa dignità a livello più alto, e poi un'attività imprenditoriale in proprio. Abbiamo visto in questa puntata post natalizia, per farvi ancora gli auguri, siamo partiti dall'anno di Renzi, abbiamo allargato lo sguardo a quello che succede nel mondo, brutta frenata dagli emergenti, Brasile, Argentina, Russia, Cina frenata, politiche monetarie che iniziano a divergere, insomma tanti rischi, la crescita potenziale che diminuisce in tutte le tre macro aree del mondo. Poi siamo tornati a interrogarci su gli imprenditori italiani, le banche e così via, e abbiamo chiuso con una constatazione: in questo 2015 il dato della ripresa è prodotto italiano non molto elevato, insomma 0,7-0,8, quanto sarà, ma insomma quasi per un terzo è fatto in realtà dalla produzione in un settore solo, l'auto. Marchionne, ha detto Mario Seminario, ha salvato Renzi, ed è di qui che vorrei ripartire con Riccardo Ruggeri. Innanzitutto, sei d'accordo, è Marchionne che salva Renzi in questo 2015? Beh, dunque, certamente, se lo guardiamo dal punto di vista dei numeri, senz'altro sì, però io sarei dell'idea, come tu sai, ne abbiamo parlato a Radio 24 tantissime volte, quando si parla di specificatamente di un manager del livello di Marchionne, bisogna andare a vedere i piani. Allora, il piano di Marchionne data quello vero, perché ne ha fatti 8 ma non ne ha neanche realizzati uno, quello vero è quello del maggio 2014. In questo piano lui diceva determinate cose e si proiettava al 2018, che sarà il momento nel quale secondo me bisogna giudicarlo in termini globali. Il suo piano aveva alcuni presupposti. In termini di mercato diceva che l'Europa si sarebbe ripresa, e questo sta avvenendo, perché era andata talmente giù che era ovvio che si riprendesse. Il secondo, non aveva previsto un dato estremamente positivo, che è il mercato americano, che continua curiosamente a crescere a dispetto di tutte le previsioni degli specialisti, perché questa è la realtà e quindi questo è positivo. Prevedeva una stazionarietà del mercato brasiliano, che come voi sapete la Fiat è considerata un'azienda brasiliana che fa anche delle automobili a Torino, esatto. Il quale ha perso il 30% ed è drammatiche le condizioni. Il quarto punto era del piano, erano i volumi, i famosi 7 milioni, che si potevano fare in modo solo, cioè con la Cina. Questo è scomparso da qualsiasi progetto, più nessuno ne parla, non perché facendo 7 milioni in particolare due o tre cinesi si facesse i profitti, ma quantomeno si pagavano i fissi, no? Uh-huh. E infine c'era la vera chiave di successo o di insuccesso, l'Alfa Romeo, cioè fare dell'Alfa Romeo l'Audi. 500.000 unità. 400.000, questo è il numero vero, è 400.000. È evidente che il piano sta sulla base e in base a tutte queste cose. Ecco, dare giudizi oggi, al di là del fatto specifico italiano, perché non c'è dubbio che il mercato non è tanto il mercato italiano, ma il fatto che lui abbia deciso giustamente di trasformare l'Italia, i suoi stabilimenti, in stabilimenti per conto terzi poi sarebbe lui stesso, no? Perché molte delle automobili non vengono vendute, vengono vendute addirittura in giro per il mondo, quindi questo è un aspetto estremamente positivo. Ecco, il giudizio, ed è questo che io vorrei, così mi permetto di sottolineare, cioè il mondo del business non è che sia, così come il mondo bancario, non è in preda di tutti questi automatismi, perché allora a quel punto il processo decisionale sarebbe sufficiente mettere un algoritmo, perché se ti porta alle estreme conseguenze i concetti che si dicevano prima, un algoritmo basta da solo e avanza. No? Sì, anche io su questo non sono molto d'accordo. Io dico, aspettiamo, cioè noi abbiamo troppa fretta nel giudicare in bene o in male le persone, cioè chi investe i soldi. Io l'unica cosa che posso dire è che il titolo è molto moscio. Mm-mm. Secondo me è moscio, perché se fossero secondo me è moscio per i motivi che ho detto prima, perché l'idea era che dovesse lanciarsi a 20 euro. Ciò è molto lontano da tutto sì. questo. Pensiamo solo, vi suggerirei di andare a vedere la drammatica perdita del titolo Volkswagen, precipitato da 130, credo intorno a 40-50, e l'incredibile, secondo me, ripresa, di cui non riesco neppure a capire, perché i casi sono due: o non erano veri quei dati drammatici, oppure questi hanno recuperato. Che cosa significa? Cioè, quello che è importante è non essere preda degli entusiasmi o dei non entusiasmi. No, questo non c'è dubbio. Questo, naturalmente, poi il giudizio complessivo su Marchionne c'ha una parte storica già accumulata, come ha reagito al fallimento tecnico della Fiat nel 2004-2008 e come è riuscito a prendere con un rapporto personale di credibilità con l'amministrazione americana Chrysler. Poi vediamo, perché nel 2016 secondo me si arriva anche all'Opus General Motors. Però tu dici, pazienza, calma. La mia opinione però è che nel rapporto italiano tra due personaggi che hanno un rapporto diretto molto forte, l'apporto inevitabile all'export, al prodotto, all'indotto di tutto l'automotive italiano, dell'andamento, della ripresa della produzione negli stabilimenti Fiat italiani, insomma è una roba che di fronte a Renzi conta come, perché senza di quello tutto il dato del PIL, della produzione industriale sarebbe completamente diverso. Mi dite, ragazzi, rapidissimamente questo anno, a voi rapidissimo, pochi secondi a testa, che cosa è la cosa che vi ha sorpreso positivamente di più in questo 2015? Positivamente? Eh sì, beh, ragazzi, mica possiamo essere solo distruttivi. Positivamente? Già Renato lo vedo in difficoltà a dirne uno. Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ma dobbiamo sfangare questo mito. No, dobbiamo abbattere il mito di Mario Seminiero pessimista. Allora, positivamente devo dire che... purtroppo ritorno alla cosa di prima, cioè mi ha stupito il fatto che comunque Fiat ha un po' cambiato marcia, secondo me. Nel tu senso ti aspettavi peggio? Mi aspettavo un po' meno rottura rispetto al standard consolidato di cui abbiamo parlato più o meno per tutta la trasmissione di consociativismo. Vabbè, però l'uomo è di rottura su tutto, quindi sai, io da Marchionne mi aspetto ancora ben altra rottura. Cioè, ripeto, se quello arriva nella condizione, per questo lancia sì, però, sai, Alfa Romeo in Formula 1, allora, di fare l'OPA General Motors. Detto da persona che poi di mestiere fa quel mestiere lì, anche se n volte più in piccolo, il problema non è tanto quello che tu vuoi fare, il problema è riuscirlo a fare poi alla struttura, perché le strutture hanno di solito una capacità di adeguamento veloce se capiscono che il capo fa sul serio, però hanno anche una certa inerzia. Sì, c'è quel problema che come ruota vorticosamente al suo modello matriciale butta fuori anche i migliori, perché non è capace di fare squadra. Fossi un azionista sarei molto preoccupato di questo. Cosa succede se cade l'aereo dove c'è Marchionne all'azionista dell'azienda? Marchionne si salva per definizione, è immortale. Ok, è immortale, va bene, d'accordo. Però al di là dei film poi c'è la realtà. Caro Alberto, no, una cosa che ti ha lasciato, che bello il 2015. È stato l'anno in cui l'Italia ha dimostrato che può fare delle riforme istituzionali nonostante tutto. E io, anche se non sono perfette, anche se non sono precise, anche se non sono perfettamente liberali, io devo dire che sono contento. Quindi tu difendi l'Italia comunque? No, sto parlando di riforme del Senato. Sì, la riforma elettorale non la riforma della legge elettorale non è una riforma strutturale, ok? È una legge ordinaria, tutto sommato. Anche se informa il sistema politico. Quindi... sì, sicuramente, però come dire, si può però cambiare. Tu ti riferivi alla riforma del Senato. Per me cambiare il bicameralismo perfetto è un segno della Repubblica, cioè rimane nella storia, quindi diciamo, cioè, non è ancora finito, serve il referendum confermatorio, ma per me è una cosa che studieranno i nostri figli, perché è una cosa che ha cambiato il corso di questo paese. Okay. Ancora è presto per vedere se... Però tu dici almeno in questo ci ha stupito. Dai, cioè, Mario, davvero ti avvali di non rispondere? Sì, non c'è una vedo, sola non cosa... vedo elementi di grande discontinuità. Hey, diciamo, Ruggeri, lei una cosa del 2015 che l'ha stupita positivamente qual è? Beh, indubbiamente praticamente la, le ultime settimane di Renzi. Io ho cambiato radicalmente parere, mentre ero molto critico. Invece il Renzi che dichiara apertamente che non vuole fare le fesserie dei Cameron e degli Hollande, le piace, l'ha colpita, non se l'aspettava, no, è questo. Vedi ragazzi, io non posso avere dubbi. Nel 2015 la cosa che mi ha lascia il più grande segno è quello che è venuto il 5 gennaio, cioè la nascita del mio primogenito. E siccome vabbè, tu sei 5, vabbè. Dice, ma quello è un fatto privato. Mi ha cambiato gli occhi, perché naturalmente io non spendo più come prima, non risparmio più come prima, non investo più come prima. Quindi sostieni la domanda di consumi nel breve periodo. Tendo a far parte di coloro che devono avere un orizzonte lungo invece che nel breve, capisci? Okay. E quindi questo cambia le cose. Grazie Riccardo Ruggeri, grazie a voi compari, buon post Natale, buone feste a tutti. E noi comunque con Conti la Belva ci siamo anche il 2 gennaio. Fratelli d'Italia, gli